Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. La prima è quella di far finta di niente e sperare che i 5 Stelle non abbiano la sindrome Liuzzi per l'ennesima volta, che è un'ipotesi, ma significa affrontare il dibattito parlamentare in questo modo. La seconda è quella di tentare un accordo di governo, immaginando un emendamento sul quale credo che dovremmo essere pronti anche a mettere la fiducia. I 5 Stelle sono quelli che quando non inseguono le sirene in mezzo al Mediterraneo, quando non credono ai complotti dell'allunaggio o dell'11 settembre, quando non si preoccupano delle scie chimiche o dei chip sottopelle, quando non fanno tutto ciò, i 5 Stelle rivendicano il loro desiderio di governare. C'è una frase che è strepitosa di una senatrice, una delle senatrici più importanti del 5 Stelle, che ha detto: a Roma ci fanno il complotto. Il complotto, ci vogliono far vincere. Io devo capire, perché posso, noi siamo tutti generazione Aldo Biscardi, il complotto come regola di vita, no? Complotto. Ma l'idea che si arrivi al punto di dire che il complotto te lo fanno per farti vincere è la somma di tutto ciò che noi pensiamo possa non stare dentro la logica della politica. Si è ripreso il centro della scena, Renzi. Si è ripreso il centro ieri parlando al PD. E ovviamente ha lanciato soprattutto questa idea. L'avevamo detto settimana scorsa, guardate, io ve l'ho detto 10 giorni fa. Poi non dite che ve l'avevo detto. Cosa vi avevo detto 10 giorni fa? Avanti? Avanti? Insomma, adesso mi arrabbio come i professori quelli. Cosa vi avevo detto 10 anni fa? 10 giorni fa di studiare, eh? Cosa vi avevo detto? Chi avrebbe vinto sulle unioni civili? Cosa vi avevo detto? Alfano! Cosa vi avevo detto 10 giorni fa? Chi avrebbe vinto? Alfano con il 2,1%. Nel gradimento italiano, alla fine vince sempre Alfano. Ministro dell'interno, ministri di qui, ministeri di là, ministeri di su, ministeri di giù, lo votano in 4, ma Alfano. Alla fine mi sa che andrà così, e cioè Alfano continuava a dire: togliamo la stepchild adoption, togliamo la stepchild adoption, togliamo la stepchild association. E alla fine andrà così, faranno un maxi alla stepchild adoption. Pishon. Rischia adoption, scusate. Ma dai, ma ha ragione, tra l'altro. Cioè, per chiamarla così, ma via, toglietela. Cioè, se la devono nominare così, toglietela. Non sanno neanche come si dice. Via, togliere. Quindi via le adozioni. Ci sarà un maxi emendamento su cui porre la fiducia. Renzi, come al solito, prende tutta la sinistra del suo partito, gli dà un bel calcione, li spinge un po' a lato, si allea con Alfano. Dei 5 Stelle, avete sentito cosa dice, aggiunge pare in segreto: quegli squallidi politicanti mi hanno già fregato una volta, quelli del Movimento 5 Stelle. E quindi Alfano. Alfano che oggi infatti sul Corriere della Sera già trionfa. E Fiorenza Sarzenini gli dice: ma lei così pochi voti come fa? Glielo chiede, come fa a vincere sempre? Non è detto che vinca, la scaramanzia di Alfano. Non è detto che abbiamo vinto, non è detto. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo mercoledì. 6 e 34 minuti, cari amici, questo è 24 mattino. Abbiamo cominciato. Lorenzo Nespoli c'è, Peter Bescapè in regia. Qua abbiamo, ragazzi, oggi un annuncio incredibile da fare, perché io ho già capito che quella che sembrava una butade è vera. Intanto voglio salutare il nostro Federico Novella. Buongiorno, buongiorno. Reduce da una piccola battuta d'arresto della Juventus in attesa della grande mazzata di questa settimana. La grande mazzata. Certo, vedo il gufo è sempre in forma. Che i tedeschi metteranno in atto. Non ti definisco come i 5 Stelle, un po' squallido. Uno diciamo, squallido un po' giornalista. Uno squallore. Quello squallore. Bene. Tutto a posto. Tu? Sei stato pronto? Lungimirante, l'oracolo. L'oracolo ha parlato e ci ha preso anche questa volta. Ma no, ma dai. È così. Lo dicevi anche tu, si sa, Alfano. Alla fine Alfano. Sì, alla faccia dei braccialetti arcobaleno vince Alfano. Questa è la realtà, la triste, arida realtà. Esatto, manifestazioni, esatto. Festival di Sanremo, tutti con questi foulard stranamente colorati. Mamma e passeranno mia. Di moda e torneranno di moda un giorno, ma un bel adesso, grigio, insomma. Bel grigio topo. Oh, adesso bel un bel grigio prima Repubblica. Una bella grisaglia. Torna la grisaglia. La grisaglia arcobaleno, mettiamola così. Dai, ditelo anche voi al 349-238-6666. Altro che questi colori arcobaleno, meglio una bella grisaglia, una grisaglia che ci porta a quelle situazioni di ordine, disciplina, tranquillità, serenità. Niente Bravo. Si muove, tutto fermo. Allora, ecco, la butade non è una butade. Qui abbiamo un candidato sindaco, io me lo sento, il quasi omonimo, il vero Rienzi, Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Eccoci, buongiorno. Eccoci. Come va? Ma è vero, Carlo Rienzi Come si va? Candida sindaco di Roma, io lo so, dai, è vera questa cosa? Questo è come il mistero di Di Pietro. È come il mistero di Di Pietro. No, di Fatima. No, esatto. Che lo saprete al momento giusto. No, io dico solo una cosa, Rienzi. Se non lo sapremo per primi, mi arrabbio un pochettino. A parte io ve l'ho già detto una settimana fa. Beh, adesso che forse si cambia, che ci sono pressioni. Stiamo sondando le opinioni dei cittadini nelle nostre sedi, con i social, e adesso in settimana vedremo. E per ora cosa dicono i cittadini? Per ora sono diciamo abbastanza positivi e favorevoli, tranne chi dice attenzione, perché poi la politica, cioè non si capisce che le amministrative sono una cosa un po' diversa, no? Cioè, la politica poi mi rende uguale a tutti gli altri, ai partiti. Sì. E questa è una giusta preoccupazione. Ecco perché diciamo un'eventuale candidatura deve essere su 6, 4, 5, 6 temi precisi, come impegno preciso, anche un po' di sacrificio per i cittadini romani, e non su grandi tematiche politiche, la stessa Olimpiade diciamo è lontana. Parla già come un candidato, vedi Federico? Noi portiamo voti in cambio di strapuntini. Noi, eccolo qua. Al primo punto ci sarà evitare la fuga di Totti dalla Roma. Ma infatti il tema è questo, apriamo subito il Parlamento, esatto, perché se uno apre il Parlamento, Peter, perché se uno si candida sindaco di Roma deve risolvere i problemi che divinano Roma in questo momento. Totti, ecco, cosa facciamo con Francesco Totti, caro sindaco? Ma secondo me Totti deve rimanere alla Roma perché è un simbolo. A me non piace il fatto che lui faccia la pubblicità al gioco d'azzardo. Eccola, vedi già. Lo abbiamo anche denunciato chiedendogli di cambiare atteggiamento e diventare testimonial contro il gioco d'azzardo. Come fa a diventare sindaco se ha denunciato Totti? Sei già giocato metà dei voti. Totti è un impresentabile, quindi. È come Scilipoti. Infatti non importa essere eletti, importa far capire ai romani che per il respirare devono sacrificarsi con la macchina, senza macchina. È straordinaria sta cosa, cioè mica uno si candida per essere eletto, Federico. Però no, io trovo qui la strada più tortuosa. Trovo la coerenza di Carlo Rienzi che non meno male che almeno da candidato sindaco, perché lo sarà, non farà una promessa fuori luogo, esatto. Si manterrà coerente con tutto quello che ha fatto nella sua vita. Non e è che... quindi Totti pure deve rimanere, perché Totti deve rimanere come allenatore, vice allenatore, giocatore, cioè, se in grado di giocare. Certo, non si deve mettere a litigare con l'allenatore, perché questa non è la disciplina nelle squadre è fondamentale. Quindi a parte il gioco d'azzardo, a parte i litigi con l'allenatore, deve rimanere perché i romani lo considerano un simbolo, no? Lo considerano sì, ma ce l'abbiamo Totti, che senti Totti al TG1 diciamo rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Infatti molto rispetto, credo, no Federico, che Spalletti l'abbia cacciato l'ha cacciato io ravviso, non so se abbia ragione, ravviso che a Roma non c'era questa ondata di panico dai tempi delle invasioni barbariche, dai visigoti, che a Roma non ci si preoccupava tanto. Però, come anche chi ha criticato oggi praticamente non è più neanche nelle pagine di calcio, è nelle pagine nazionali cosa fare con Francesco Totti. Subito dopo la Libia c'è Totti. Sì, unioni civili, Libia, Siria e Totti. Queste sono le tre notizie più importanti sui giornali. Vabbè, insomma, ma no, allora ci dica almeno Renzi qual è il giorno in cui scopriremo che si candida, perché poi si candida, si sa. Non ve lo dico. Ma porca miseria, no, Federico, ma io non lo noi so. Noi pretendiamo di essere, come dire, i privilegiati che lo sappiamo. In settimana buttate l'occhio sui giornali che si vendono a Roma. Insomma, Vabbè, insomma, non ci ha dato lo scoop, non ci dà lo scoop. Ci sarà una cerimonia, come dire, no, nessuna cerimonia. Come un po' tipo Casa Monica. No, farò una richiesta di adesioni a chi ha voglia di andare anche contro i privilegi che in tutti questi anni sono stati nella nostra città, anche con sacrifici. Ma si candida con una lista civile, con una lista civica, come si chiama? Il Codacons. Noi Codacons. Però l'ha detto, si è fregato, mi candido con il Codacons. L'ha detto, no, mi candido con... Abbiamo la registrazione. Ma nulla è certo in questa terra. Sì, è ritratta. Ma qual è lo slogan, Carlo? Lo slogan della campagna, quale potrebbe una campagna contro i cittadini. Come contro i cittadini? Contro i cittadini, perché il primo punto è che per entrare a Roma, come a Londra, con la macchina bisognerà pagare dai 10 ai 20 euro. Avete capito, amici di Roma? Soldi, no, ma i voti qui fioccano. Aspetta, con questi sicuro di portare avanti questa linea? E con questi denari comprare 800 bus elettrici e andare gratis sulla metro e sui bus dalle 8 alle 9 alle 17 alle 18. Amici di Roma, attenzione, il programma un po' come aveva detto la Balzani qui a Milano, Federico, ti ricordi? Certo, come no. Bus, quindi mezzi di superficie. Ma anche la metro, ma perché la metro? La metro no. Gratis, cioè allora, solo i mezzi di superficie. Perché la macchina la può buttare dove gli pare, in seconda, in tripla fila, sui marciapiedi, sui piedi di tutti, cioè, nessuno gli fa niente. Avete mai visto un vigile fare una multa alla macchina in doppia fila? A Roma, oppure una motocicletta sul marciapiede, farà un buffetto alla macchina. Ma è una cosa di consuetudine, è una cosa pittoresca a Roma. Invece, è una cultura che porta a soffocare la città. Bello questo programma, mi piace questo programma. Via le macchine da Roma e incentiviamo i mezzi privati, 10-20 euro per entrare nel centro. I mezzi pubblici, 10-20 euro per entrare a Roma e con quello compriamo degli autobus. Però ricordiamoci che i romani sono quelli che pagano le tasse comunali più alte d'Italia. Io non so come la prenderebbero un'altra tassa per avere i mezzi pubblici gratis. Spendete bene, non li avete già. Questo è un costo di sopravvivenza. Noi abbiamo il PM10 che porta il cancro più elevato di ogni città italiana, cioè abbiamo le centraline dell'inquinamento dell'aria che sballano tutti i giorni, poi fanno Targhe alterne, targhe sì, targhe no, blocco della circolazione, no, ridicolo. Vedi sindaco, allora vogliamo morire o vogliamo sopravvivere? Questa è la cultura nuova. Vogliamo usare bene i soldi che già ci sono, potrebbero risponderti così i romani. Sì, però non ce ne sono, non ce ne sono purtroppo abbastanza, e bisogna usarli in modo da limitare poi quelle cose che fanno. Senti, il danno. Però Federico, il programma c'è già, non è che devi tu qua venire a rompere. Stavo già allenando per i faccia a faccia. I faccia a faccia dure. Ma e si candida, cioè nel senso non ci sono primari, cioè proprio questa lista civica, noi Codacons, tipo così, noi Ma voi avete visto chi sono i candidati a Roma? Sì, vogliamo parlare. Ce n'è uno, Bertolaso, che Salvini ha detto sì, è il mio candidato, dopo un giorno ha detto non mi piace più. Vogliamo ricordare tutto quello che ha combinato Bertolaso, per carità. Certo, l'emergenza a Roma andrebbe bene uno che c'è Marchini, c'è il Movimento 5 Stelle che dice c'è un complotto per farci vincere. Marchini è bello, 5 Stelle non si è capito niente. Poi gli altri c'è Rienzi, c'è Giachetti, c'è Morassut. Giachetti, insomma, potrebbe anche fare qualche cosa. Con Rienzi ci sarà il tuo nome nel simbolo, no? Sì, cioè, insomma, candidato sindaco. Con Rienzi, slogan, ricordatevi la I. Ti propongo questo slogan. La I dell'Italia sopra... Insomma, bello così, cioè Renzi in grande e Malai tricolore sopra. Avete indovinato già tutto. Così la gente pensa di votare Renzi, arriveranno dei voti, ma poi ce l'hai. Quello che mette i puntini sulle I, perfetto. Esatto, è fantastico. È carina questa, quello che mette i puntini sulle I. È fantastico. No, ma è fantastico. Quello che mette le I sui cognomi. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Attenzione, Carlo Renzi, informazioni sul traffico, tanto tra poco non ci sarà più tutti i mezzi elettrici per Roma, però traffico, poi rientriamo. Amone, Milan, rimenati, traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Ciao, grande Milan. Ora che grande Umberto se n'è andato, noi resteremo col suo eterno eco. Alessandro Milan, dacci tregua con il Milan. Hai stancato a parlare solo di calcio e quando si parla di diritti dici che ti stanno rompendo le scatole. I diritti sono una cosa importante, specialmente per chi non ce li ha. Mamma mia Milan, che propaganda che state facendo tutti quanti con queste unioni civili. Tutti voi giornalisti, Sanremo, televisione, state facendo il lavaggio del cervello a tutta l'Italia. Omina, sono Fiorentino. Stamattina ho sentito che la Lugella non vede l'ora che del weekend perché si rilassa. E perché non ti svegli alle 5? Io sabato a mezzogiorno quando torno a casa non vedo l'ora di ripartire per andare a lavorare. Se due figlioli mi fanno due coglioni che non hai idea te. Uno vuole andare di qua, quell'altro vuole andare di là, quello vuole mangiare la pizza, quell'altro vuole mangiare niente. Ma che sei crudo per davvero? Viva il lavoro! Viva il lavoro, il nostro Fiorentino. Ci siamo un po' identificati. Sì, il Fiorentino è un mito, devo andare a trovarlo, giuro. Allora, no, però di unioni civili parliamo un pochettino. Detto che allora Carlo Rienzi annuncerà in settimana la candidatura a Roma, ma è ufficiale, a noi non lo dice in anticipo, ma sarà così. Si ricordi, avvocato, che insomma uno strapuntino ci va sempre comodo. È pronto l'assessorato per tutti quanti qua. Tutti quelli che vogliono un assessorato. Bella questa cultura che avete dello strapuntino, perché è proprio quello contro cui bisogna andare. Ma perché vince Alfano, torna la grisaglia, la Democrazia Cristiana, e quindi insomma il manuale Cencelli. Esatto. E quello fa i numeri, Renzi deve vincere. A proposito, ecco, vincere unioni civili. Allora, caro Federico, fa bene a guardare insomma l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, ecco, diciamo così, a portare a casa una mezza vittoria anche Renzi. Sì, perché sai, alla fine non aveva molta scelta. Lui ha messo la fiducia, troverà un asse con Alfano e molto probabilmente a questo punto si rinuncerà alla famosa pietra dello scandalo delle adozioni. Sì. Però poi adesso funziona, adesso è così, poi magari fra qualche mese tornerà alla carica anche con le adozioni. Però adesso Adesso ma no, ma infatti l'idea è quella, cioè l'idea è, come dire, è cominciare a portare a casa qualcosa e poi sì, portare a casa un po' di più, insomma. Sì, non è che la porta sia chiusa definitivamente sui famosi diritti di cui si parla, adesso è andata così, un passo per volta. Quindi pragmatismo. Sì, ma poi non capisco neanche le bordate contro i grillini, insomma. Sì. Vabbè, insomma, gli hanno impallinato la legge secondo lui. Che c'è, Rienzi? Io, quando ci sono alleanze tra partiti che hanno ideologie sul punto così diverse, bisogna trovare un compromesso, no? Quindi lui dice, intanto facciamo questo perché riusciamo ad andare avanti nella storia, diciamo, no? Poi si farà un'altra cosa, si sarà un'alleanza buona. Sì. Non mi sembra una decisione sballata, c'è tutto sto chiasso su una cosa così semplice. D'altra parte Alfano fa parte del governo, non mi sbaglio. Eh sì, certo. L'ho dimenticato. C'è Di Pietro al posto di Alfano. Non c'è Di Pietro, anche se... L'unico pezzo che si va perdendo è quello della sinistra del partito, ma tanto quello l'aveva già perso. Ma quello ogni giorno è buono per dargli un calcettino di tacco. Sai che si stanno organizzando con Sinistra Italiana per fare un Infatti fanno bene. Scusa, ma già a Roma appunto non hanno due candidati, Giachetti è quello del PD di Renzi e Morassut è quello appoggiato da Bersani, cioè voglio dire è già così. Ah, poi ci sarà Fassina invece, che però lui è uscito dal Partito Democratico e quindi sarà un po' più a sinistra. Poi c'è Renzi Renzi è ultra, è come Totti, è un'icona. Anche se l'ha denunciato Totti, per cui ci sarà anche l'uno scranno da assessore, sì, esatto. Vero, giusto? Però beh sì, effettivamente potrebbe essere, sarebbe una bella riconciliazione, assessore allo sport, così magari ritirate la denuncia e un po' di voti arriveranno. Senti, Di Maio sulle unioni civili, Di Maio dice adesso noi ci siamo al 100%, forse un po' tardi. Io lancio un appello da questa trasmissione al premier Renzi: noi sulle unioni civili ci siamo al 100% come Movimento 5 Stelle. Mm-hmm. Il Partito Democratico vuole votare questa legge e la possiamo votare in 3 giorni, come dicono i tecnici del Senato, oppure vuole fare propaganda sulla pelle dei diritti e dei cittadini? Va bene, da luce annunziata. Federico, è tempo scaduto per i 5 Stelle ormai su questa legge? No, se vogliono votare la votano, però è evidente che dopo questo volta faccia hanno perso un po' della loro affidabilità, è evidente. Ma sai, i 5 Stelle sono così, non si capisce bene chi decida nel partito, e se nel partito non si capisce chi decide, come fai ad allearti con loro? È chiaro. Ma poi se una parte gli va bene, scusate, ma perché non devono votare intanto questa parte? Ma no, c'è la storia del canguro. O metti dentro quello o non ti voto. Ma hanno sempre detto, noi la votiamo, ma deve rimanere la step. Ma è una fesseria questa. Poi si ricomincia la battaglia per la step, come si chiama lei, no? Association. Adozione. Il figliastro, il configlio. E vabbè, insomma, Rienzi, avete qualche altra battaglia da portare avanti prima di candidarvi? Hai voglia? No, qualcosa di attuale, qualcosa che a noi sfugge, non so, una denuncia contro delle stufe elettriche, qualcosa? Quello che è importante adesso sono sul piano nazionale le banche, perché c'è una situazione drammatica, c'è una paura che decine di altre banche vanno a rotoli, lo sapete questo? Oddio, no? Decine, no. Federico, che conto hai? Tu dove c'è il conto? È vero, sotto il materasso, tu li tieni sotto il materasso. Io li tengo nei calzini. Poi c'è tutta la battaglia delle incompiute. Adesso a Roma si riparla, faremo qua, ripigliamo la villa di Calatrava, ripigliamo là. No, Flaminio va in rovina. Quindi, caro, tu sei contro le Olimpiadi a Roma? Ah, esatto, appunto, saranno lontane. In questo momento assolutamente contro, cioè prima si tappano le buche, secondo punto del programma. E qui sta riguadagnando voti, sta riguadagnando voti. Per tappare le buche sotto la responsabilità degli ingegneri, che se si riaprono le buche pagano di tasca loro. No, tutti a fare gli ingegneri a Roma, mi immagino la fila adesso a fare gli ingegneri. Quindi l'unica muore sulla motocicletta. Questo è un problema serio. Ma l'unica disciplina olimpica sarà il